Ora il popolo mormorava male agli orecchi del Signore. Il Signore sentì e la sua ira divampò. Il fuoco del Signore si accese contro di loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Il popolo gridò a Mosè. Mosè intercedette presso il Signore e il fuoco si spense. Il nome di quel luogo si chiamò Tabera, perché il fuoco del Signore si era acceso contro di loro. La congrega di gente che stava in mezzo a loro ebbe un grande appetito, e anche i figli di Israele ripresero a piangere e dicevano: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci viene in mente il pesce che mangiavamo in Egitto per niente, i cocomeri, i meloni, la verdura, cipolle e agli. Ora stiamo languendo, non c'è che manna davanti ai nostri occhi». La manna era come un seme di coriandolo, esteriormente simile al bdellio. Il popolo andava in giro a cercare, la raccoglieva, la tritava nelle macine o la pestava nel mortaio, la cuoceva in pentola e ne faceva focacce. Il suo gusto era come gusto di pane all'olio. Quando la rugiada scendeva sull'accampamento di notte, anche la manna vi scendeva. Mosè sentì il popolo che piangeva in tutte le loro famiglie, ognuno all'entrata della propria tenda. L'ira del Signore divampò e Mosè ne ebbe male. Mosè disse al Signore: «Perché hai fatto del male al tuo servo? E perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi da porre il peso di tutto questo popolo su di me? Sono forse io che ho concepito tutto questo popolo, o io che l'ho generato, da dirmi: portalo nel tuo seno, come la balia porta il lattante, fino al paese che hai promesso con giuramento ai loro padri? Da dove avrei carne da dare a tutto questo popolo, giacché piange verso di me, dicendo: dacci carne da mangiare? Non posso da solo portare tutto questo popolo, perché è troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, piuttosto fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, e non veda più il mio male». Il Signore disse a Mosè: «Radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, che tu sai essere anziani del popolo e suoi scribi. Li condurrai alla tenda del convegno, e vi staranno con te. Io scenderò e là parlerò con te, trarrò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro. Porteranno così con te il peso del popolo e non lo porterai da solo. Al popolo dirai: santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto alle orecchie del Signore dicendo: chi ci darà carne da mangiare? In Egitto stavamo bene. Il Signore vi darà carne e mangerete. Non un giorno solo ne mangerete, né due giorni, né cinque giorni, né 10 giorni, né 20 giorni, ma fino a un mese, fino a quando vi esca dalle narici e vi sia di nausea, per il fatto che avete rigettato il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a me, dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto?» Mosè disse: «Il popolo conta 600.000 adulti, e tu dici: darò loro carne e mangeranno per un mese. Si ammazzerà per loro del piccolo e grosso armento, o si raduneranno per loro tutti i pesci del mare, affinché ne abbiano abbastanza?» Il Signore rispose a Mosè: «È forse corta la mano del Signore? Ora vedrai se la mia parola si compirà o no». Mosè uscì e disse al popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda. Il Signore scese nella nuvola e gli parlò. Trasse dello spirito che era su di lui e lo diede ai 70 uomini anziani. Quando lo Spirito si posò su di loro, cominciarono a profetare, ma non continuarono. Ma due uomini erano rimasti nell'accampamento. Uno si chiamava Eldad, il secondo Medad. Lo Spirito si posò su di loro. Erano tra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda, e cominciarono a profetare nell'accampamento. Un ragazzo corse e lo annunciò a Mosè e disse: «Eldad e Medad stanno profetando nell'accampamento». Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè dalla sua adolescenza, disse: «Signore Mosè, impedisciglielo». Mosè gli disse: «Sei forse geloso per me? Chi può dare a tutto il popolo del Signore dei profeti? È il Signore che dà a loro il suo spirito». Mosè si ritirò nell'accampamento con gli anziani di Israele. Si alzò un vento, per ordine del Signore, portò quaglie dal mare e le fece cadere presso l'accampamento, per il cammino di un giorno da una parte e il cammino di un giorno dall'altra, intorno all'accampamento, ad un'altezza di 2 cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo fu in piedi tutto quel giorno, tutta la notte e tutto il giorno seguente raccolsero le quaglie. Chi ne raccolse meno ne raccolse 10 omer. Le stesero intorno all'accampamento. La carne era ancora tra i loro denti, prima di essere masticata, che l'ira del Signore divampò sul popolo e il Signore colpì il popolo con una gravissima piaga. Quel luogo si chiamò Kibrot Tava, perché là seppellirono il popolo che s'era lasciato dominare dall'ingordigia. Da Kibrot Tava il popolo partì per Caserot e sostò in Caserot.